Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, due verdetti sono arrivati, uno è aritmetico e riguarda il Bari che è retrocesso in Serie B, l'altro è scontato ormai praticamente ed è lo scudetto a cui è arrivato il Milan. Nelle ultime quattro giornate di campionato poi scopriremo nell'ordine chi farà compagnia a Milan, Inter e Napoli in Champions League, sia pure attraverso i preliminari, chi giocherà l'Europa League, e questo riguarderà sia le due squadre che si piazzeranno al quinto e al sesto posto, sia le vincitrice di Coppa Italia, ma nel caso fosse l'Inter ovviamente si libererebbe un posto, chi farà compagnia al Bari in Serie B, e qui la corsa è davvero apertissima. In Europa invece non tutto, ma qualcosa si è riaperto. Pensate che meno di un mese fa, il 29 marzo per l'esattezza, come mi segnala Franco Piantanide, il campionato più combattuto di tutta l'Europa, quello che sembrava destinato a finire all'ultima giornata, e tutti più o meno gli osservatori erano unanimi su questi, era proprio quello italiano, perché il 29 marzo c'era il Milan a 2 punti di vantaggio sull'Inter, mentre in Inghilterra ne aveva 9 il Manchester sul Chelsea, il Borussia ne aveva 7 sul Leverkusen in Germania, in Francia per esempio il Lille aveva 4 punti sul Marsiglia, mentre adesso ne ha 2, ma il Marsiglia deve recuperare domani sera una partita che può permettergli addirittura il sorpasso, come poi già accadde un anno fa. Ora, più avanti ci occuperemo dell'Italia, con l'aiuto dei vostri interventi diretta all'800240024, ma partiamo dall'Europa, perché stasera è in calendario la prima delle due semifinali di Coppa Campioni, Schalke 04, Manchester United. Buongiorno Fabio Tavelli. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, il personaggio di stasera e forse anche della finale, se lo Schalke dovesse fare la sorpresa ad andarci, io credo sia certamente uno di 4 lettere, no? Uno di 33 anni e 4 lettere che si chiama Raul. Sì, sicuro. Sono 2, un po' più piccolo è Manuel Neuer, che è il prossimo portiere del Bayern di Monaco, ma soprattutto stiamo parlando di Raul González Blanco, uno che, diciamola fino in fondo, quando ha lasciato il Real Madrid si pensava andasse a Gelsenkirchen, non dico a prendere l'ultimo contratto, perché comunque lui non ne ha avuti molti di contratti, e cioè lui è stato davvero una bandiera del Real Madrid, e credo, anzi sono sicuro, che nella scelta di andare a Gelsenkirchen ci fosse anche il fatto di restare in una competizione europea, ma penso che lui stesso non si aspettasse di andare così avanti e di essere ancora qui il 26 di aprile a parlare di Champions League. Io penso anche che tutta l'UEFA, inteso come board, inteso come organizzazione e marketing, ringrazi lo Schalke 04, ma si auguri fra una settimana di non averli più tra i piedi, perché avere lo Schalke 04 in una finale di Champions contro una delle due spagnole potrebbe togliere molto dell'appeal che una finale di Champions invece tra il Manchester United e una delle due spagnole avrebbe con Wembley. Però questo non significa che lo Schalke 04 vada penalizzato o che vada considerato semplicemente un underdog o un fastidio. È una squadra che il suo l'ha fatto, ha passato un girone con squadre di una caratura non altissima, ma spesso sono proprio i gironi di caratura media quelli più pericolosi, ha avuto la bravura di vincere a San Siro in quel modo e poi di vincere pure in casa contro l'Inter e di eliminare la squadra campione d'Europa, quindi è a pieno titolo ed è a pieno merito così avanti. Allora, tu per la partita di stasera ci hai già segnalato quali sono i due personaggi da seguire dello Schalke 04. Uno gioca in porta ed è a una delle ultime partite davvero con lo Schalke, perché poi difenderà la porta del Bayern, e l'altro è il sempiterno Raul. Chi è chi sono i personaggi del Manchester United di stasera? Guarda, è molto carico il Chicharito Hernandez, è infortunato per Berbatov, gioca lui. Però i miei uomini di coppa sono Ryan Giggs e Wayne Rooney. Wayne Rooney fai fatica a collocarlo quando disegni graficamente una formazione, perché lo devi mettere o al centro dell'attacco o comunque a sostegno. Giocando Hernandez, diciamo che Hernandez farà quello più vicino al portiere, mettiamola così, cioè a Neuer, e Rooney gli girerà un po' attorno. Però Rooney, soprattutto in Champions League, ci ha abituato davvero a coprire ogni petalo di fiore o ogni filo d'erba del campo, e quindi è veramente lui l'uomo più importante. E poi l'altro è Ryan Giggs, che è un giocatore fantastico che penso in questo momento, con, se dovesse scegliere Ferguson di giocare con Valencia largo a destra e Park largo a sinistra, giocherebbe in una posizione leggermente più centrale insieme a Carrick, costituendo un centrocampo credo davvero tra i migliori d'Europa, sia per capacità di contenimento che, nel caso del piede sinistro di Rangnick, per capacità di lanciare gli attaccanti. Restiamo in Inghilterra, poi magari ci spostiamo rapidamente un momento in Germania, ma parlando di campionati e non più di Coppa, poi dopo l'intervallo apriamo il grande libro spagnolo. In Inghilterra perché mi pare che ci sia stato, adesso suicidio è una parola enorme, soprattutto molto sgradevole, però insomma, mi sembra che l'Arsenal anche quest'anno abbia fatto qualcosa del genere. In teoria le ultime speranze restano semmai al Chelsea, che è tornato sotto. Sì, prima tu dicevi di questi numeri, ed erano numeri che indicavano il campionato italiano come il campionato più combattuto, no? Ci si aspettava una volata, invece il campionato italiano può finire alla terz'ultima. Il campionato inglese può finire anche all'ultima difficile, però potrebbe finire, cioè potrebbe essere ancora combattuto, perché il Chelsea è praticamente rinato, il Chelsea ha cominciato a non sbagliare più niente ed è riuscito a portarsi a meno 6. L'Arsenal nelle ultime giornate, soprattutto prendendo gol pesantissimi agli ultimi minuti, ha o perso o pareggiato partite che poteva anche vincere, e abbiamo calcolato che il Manchester United nei minuti finali, dalla prima giornata a questa, ha guadagnato 15 punti, cioè trovando gol dall'85esimo al 90esimo più recupero, è riuscito a portare a casa 15 punti che a 5 minuti dalla fine non ci sarebbero stati. È chiaro che le partite durano più di 90 minuti e quindi è normale qualche volta segnare nei minuti finali e conquistare punti insperati, però prenderne 15 quando dall'altra parte il tuo rivale più accreditato ne ha persi 9 nei minuti finali, questo significa che il solco che si è creato tra le due squadre è non dico che stia tutto lì, ma in parte ci stia. Ti segnalo però il calendario che dice domenica Manchester United Arsenal, anzi sì. Arsenal Manchester United, sì. E la partita successiva Manchester United-Chelsea. Ora, è chiaro che il Manchester in questo momento si gioca tutto, perché ha la Champions League dove è favoritissimo, però non deve andarci distratto, perché lo Schalke è una squadra che devi battere, si può battere ma la devi battere, difficilmente ti regalerà qualcosa. E poi soprattutto in campionato, nel senso che l'Arsenal potrebbe fare un favore al Chelsea che tra l'altro gioca un derby contro il Tottenham. Diciamo che il campionato inglese nelle giornate finali regala tanti scontri diretti e tante rivalità, perché anche il Tottenham deve provare a qualificarsi per la prossima Champions, e la vittoria di ieri sera del Manchester City, firmata con il primo gol di Dzeko. A proposito, parentesi, Gigi, curiosità, settimana scorsa avevamo parlato sì. dei flop di Dzeko e Torres, hanno segnato tutte e due, era anche ora. Da fine diciamo gennaio, oggi insomma sì, sono sì. gol parecchio cari, sono gol pagati diciamo così a peso di platino, certo. E il gol di Dzeko di ieri sera ha dato il più 4 al Manchester City, insomma pare che Mancini ce la faccia a portare il City finale. Senti questa invece, che è una smentita nel giro di 3 minuti a quello che abbiamo appena concluso prima, che si sapeva fino a un istante fa. Grazie, questa è un'agenzia appena arrivata da Berlino, grazie ai soldi in arrivo per la semifinale di Champions e eventuali altre cose, lo Schalke 04 non venderà più al Bayern il portiere Neuer. Lo ha detto il direttore sportivo Eld del club di Gelsenkirchen. Con la semifinale di Champions e la finale di Coppa di Germania riceveremo qualche euro, ha ironizzato questo dirigente, non siamo più obbligati a muoverci e intendiamo dunque tenerci ancora per un anno il miglior portiere del mondo. Però è possibile che l'abbiano comunque venduto e magari lo tengano un anno in più. Non credo che il Bayern sia d'accordo con questo, bisogna vedere cosa c'è di scritto in questi casi, però è una dichiarazione interessante. Interessante, ma tu dici non conclusiva, perché qualcosa potrebbe già essere stato fatto che va oltre le intenzioni di questo dirigente. Adesso con Fabio Tavelli ci proiettiamo sulla semifinale d'andata di domani sera, che si gioca a Madrid, quindi a Madrid l'andata e Barcellona il ritorno, tra Real e Barcellona. Qui le sensazioni sono tante, le notizie magari un po' meno, però qualcosa c'è. Sullo sfondo, a parer mio, c'è un rapporto di forze cambiato abbastanza notevolmente sia dall'esito della finale di Coppa del Re, vinta dal Real Madrid, sia da dal fatto che anche il Barcellona, che era abituato ad andare a viaggiare, non a fare spenti perché è la più grande squadra del mondo, ma insomma a viaggiare con la forza dei nervi distesi un po' alla volta, a Mourinho non si resiste, e quindi mi sembra che anche Guardiola e qualcun altro nell'ambiente del Barça ci siano un tantinello cascati. Sì, anche vero che io mi stupirei moltissimo se Guardiola ci fosse cascato così in mani e piedi, perché abbiamo assistito in questi giorni a un curioso ribaltamento delle posizioni. Intanto il Real Madrid che va a Valencia pronti via 4-0 nel primo tempo, va anche sul 5-0, cioè una vittoria quasi barcellonista come matrice, e invece un Barcellona nervosetto nelle dichiarazioni, sia quelle da parte di Valdés, che ha detto speriamo che l'arbitro ci permetta di fare il nostro gioco, in realtà niente di trascendentale, però piccoli segnali, così come una dichiarazione di Guardiola che ha detto insomma, se l'arbitro fosse portoghese sarebbe contento Mourinho, che è vero, che è una roba normalissima, ma che non l'ha mai detto. Esatto, è strano perché non l'ha mai detto. La mia lettura è questa: io non credo che Guardiola si faccia trascinare, poi dobbiamo aspettare, oggi vedremo e ascolteremo la conferenza stampa sia di Mourinho, che non potrà mandare Carranca, che di Guardiola. Io penso che Guardiola queste cose non le faccia a caso, cioè che non sia uno sprovveduto che va in conferenza stampa così, pronti via, e si lascia portare su un terreno che non è suo. La sensazione mia è che Guardiola abbia capito che se non modifica il corso del fiume, l'aria in questo momento porta verso Mourinho, l'aria in questo momento porta verso il Real Madrid. Può essere, ma ripeto, una supposizione, può essere che lui abbia voluto provare a dare una piccola sterzata, una piccola strambata, se fossimo nella vela, per far capire ai suoi che in questo momento questo Barcellona farebbe fatica, fa fatica contro il Real Madrid, c'è bisogno di un colpo d'ala, e allora anche Mourinho ha provato a utilizzare una tattica diversa. Anche Guardiola ha provato a utilizzare una tattica diversa. Certo, verissimo, ma questo già significa che rispetto alla vigilia di queste sfide, cioè a prima che cominciassero, ma in ogni caso all'andamento stagionale, significa che il rapporto di forza è un pochino cambiato. Ora, vedi che il mio lapsus in questo caso è certo, perché parlando di Guardiola l'ho chiamato Mourinho. Paradossalmente, sto pensando proprio a quei 4 gol, 5 gol in fila che ha segnato il Real a Valencia, potrebbe addirittura cambiare a vantaggio del Barcellona, ma questo paradossalmente perché? Perché secondo me l'inerzia di queste sfide sta portando il Real verso la finale, non so come, ma in qualche maniera sì. Se il Real, a patto che il Real restasse umile e accettasse di giocare in quella maniera ventratesso, in quella maniera totale, no? Ma spersonalizzandosi in un certo senso da un punto di vista tecnico, come è stato per la finale della Coppa di Spagna. Se il Real ricomincia invece, come ha nel suo DNA, ad aver voglia di giocare a calcio, allora ridiventa un problema per lui, mi sa. Sì, io penso anche che Mourinho questa sia una cosa che la eviterà come la peste. Mourinho sa come si elimina il Barcellona, perché l'ha già fatto con una squadra più debole, onestamente, come era l'Inter l'anno scorso, e con un Barcellona che forse in quel momento era troppo tranquillo. Ora, il Barcellona non è così tranquillo, nel senso che il Barcellona l'anno scorso pensava di fare polpette dell'Inter, e lo pensava anche dopo l'andata, nel senso che ha affrontato la gara di ritorno con una spavalderia, con una tranquillità, tu ti ricorderai il video, la remontada, certo, quell'ossessionante palleggio. Quel giorno Mourinho è rimasto in 10 e forse lì lui riuscì a limitare i danni e a costruire una Maginot impenetrabile, al punto che il Barcellona il sangue agli occhi lo ebbe solo nei 10 minuti finali. Questa volta è tutto diverso. Però è diverso anche il Barcellona, nel senso che il Barcellona ha una velocità di crociera inferiore ai suoi giorni migliori, e se il Barcellona non gioca una partita alla sua maniera, a quelle che spesso le riescono, io credo che abbia ragione Guardiola in questo senso, e cioè che il Barcellona sia sfavorito. Però è chiaro che se lo dice un commentatore neutrale ha un senso, se lo dice Guardiola può sapere di pretattica. Guardiola ha grossi problemi di formazione perché ha perso tutti i laterali esterni sinistri. Ecco, arriviamo a questo tipo di vigilia, perché sia che è un po' complicata anche per il Real, ma lo è soprattutto per il Barcellona. Stavi dicendo che a sinistra dietro non c'è più nessuno. Rischia di giocare Pujol, che è un giocatore comunque non in forma e che è già a rischio e che forse giocherà solo perché Abidal non può giocare, perché gli si è fatto male pure Maxwell, non credo schiererà lì Keita, lui deve proteggere due zone, il centro puro, diciamo che lì Piqué può fare per uno e mezzo se gli gioca accanto Mascherano, ma a sinistra si deve inventare qualcosa, e mettere lì Pujol vuol dire che lui è, non ha alternative, non può mettere quasi nessuno da quella parte lì, a meno che non faccia giocare un canterano, ma far esordire un canterano in una semifinale di Champions League significa che da quella parte Cristiano Ronaldo può fare davvero dei danni, e se Cristiano Ronaldo fa dei danni poi medicarli è complicato. Certamente sì. I problemini invece, problemini qualcosina c'è, però forse meno gravi che di organico ha il Real? Ma guarda, l'unica vera cosa è che molti pensavano che Kakà potesse giocare. Kakà potesse giocare? Io sinceramente no, però se era letto, e anche i tifosi che comunque si aspettano che prima o poi Kakà faccia qualcosa di importante, si aspettavano o potevano pensare che Kakà potesse essere della partita. È convocato Kakà, ma è tornato in Brasile per assistere alla nascita della seconda bambina. A proposito, complimenti, anche perché uno dei pochi giocatori di una certa fama a scegliere ancora nomi abbastanza normali, sì. E Isabella, la seconda, Luca credo il primo, e Kakà sta tornando, tornerà in tempo per la partita, ma cioè, non credo che Mourinho lo voglia schierare dal primo minuto. Per il resto io credo che lui giocherà allo stesso modo, e potrebbe mettere ancora una volta Pepe dalle parti di Messi. Piccola nota statistica: Messi è alla terza semifinale di Champions League, non ha mai segnato, anzi è la quarta semifinale di Champions League e non ha mai segnato nelle tre precedenti, quindi questo significa o che Messi i gol li tiene per la finale ed è successo, o che Messi prima o poi si sbloccherà e un gol lo farà. In Spagna hanno scritto e si sono molto divertiti a riprendere Mourinho a lavorare con l'iPad, quindi con una tavoletta elettronica per indicare gli schemi. A qualcuno ha detto ecco che l'applicazione tecnologica ha suggerito a José Mourinho di mettere Pepe dalle parti di Leo Messi. Mourinho ha vinto tatticamente la partita con Guardiola nella finale di Coppa del Re. Credo, Gigi, che 20, 30, 40, ma anche 50 anni fa, mettere un buon mediano o un buon difensore su un attaccante pericoloso ci arrivassero anche senza l'iPad, io credo, no? Sì, può essere successo anche in passato, noi non vorremmo sminuire i maghi di oggi. No, questa non è tanto, cioè non per sminuirli, no. È dalla stampa militante, certo. È stretta osservanza. È la stampa militante, infatti, il problema, non sono loro, perché certamente nessuno di loro rivendicherebbe. Non si sognerebbe mai. A cominciare da Mourinho non rivendicherebbe mai di aver inventato questa mossa segreta. Sono gli adoratori, come sempre, in pericolo. Indubbiamente l'idea che Messi debba sbloccarsi dal punto di vista realizzativo, uno che quest'anno tra Liga, Champions, Coppa del Re e non so che cos'altro, ha dato 50 gol ufficiali, in effetti fa un po' ridere. Però è la verità, perché in semifinale non ha mai segnato. Sì, come a me fa molto ridere, ho letto da qualche parte che David Villa, i digiuni di David Villa quest'anno sono la prova provata che i centravanti fanno fatica a giocare accanto a Leo Messi. Ora, David Villa ha fatto 18 gol nella Liga, ora pensare che uno che fa 18 gol sia uno in difficoltà, va bene, li vorrei tutti nella mia squadra. Cioè, con 18 gol, non dico che in Italia vinci la classifica cannonieri, ma quasi. Ho letto. Lì arrivi terzo perché i primi due fanno gara a sé. Ho letto anch'io quell'articolo e stiamo sempre parlando di adoratori militanti, in effetti. Temo di sì. Molto bene, grazie a Fabio Tavelli. A presto, Gigi, buona Champions a tutti, anzi scusa, buona Coppa dei Campioni. Sì, buona Coppa dei Campioni, almeno, cioè già dagli ottavi, ma dalla semifinale in poi certamente non si discute. Allora, mi pare che di Schalke Manchester stasera e di Real Barça domani sera abbiamo parlato a sufficienza, salvo interventi vostri. Adesso dopo Dopo l'intervallo per la borsa arriveremo invece a capitoli più nostrani. Adesso vi introduco qualcosa. Dopo aver risposto a un SMS di Christian da Verona che dice: ma l'aver già festeggiato può aver fatto male a Real Madrid? Io direi di no, Christian, perché loro hanno festeggiato un altro trofeo che non c'entra con la Coppa dei Campioni, a parte che hanno esorcizzato quella festa sfasciando il trofeo, no? E facendolo arrotare dal pullman sociale. Ma no, direi anzi che semmai li ha galvanizzati e li ha resi più convinti, perché in questi mesi, diciamo pure in questi anni, il Real aveva accumulato un discreto complesso di inferiorità nei confronti di questo Barcellona a forza di batoste. Ora il fatto di essere riusciti finalmente a batterlo dopo aver già pareggiato la partita precedente ha prodotto una festa che non è stata una festa intempestiva, è stata il festeggiamento di un altro trofeo. Dopo dicevo che ricominciamo invece da argomenti più nostrani, a cominciare da questo, anche questo segnalato da Franco Piantanide. 10 volte su 15 nell'era dei tre punti. E sempre da quando il campionato ha 20 squadre, il campionato lo vince chi ha la miglior difesa, non chi ha il miglior attacco. E anche quest'anno il Milan, che ha subito 23 gol e che è nettamente la miglior difesa del campionato, perché la seconda è quella della Lazio, che ne ha presi 32, cioè ben 9 in più, anche quest'anno il campionato lo vince la squadra che ha subito meno reti. Ripartiamo da qui dopo l'intervallo per i mercati. C'è qualche curiosità di campionato che riguarda anche la zona salvezza. La principale è questa: la quota salvezza si è molto alzata rispetto agli ultimi anni. È capitato nei campionati a 20 squadre che si retrocedesse con meno di 35 punti. Quest'anno, a 4 giornate dalla fine, le terzultime, cioè una di quelle che andranno in B, hanno già 35 punti e mancano 12 potenziali. Quindi si va verso una situazione simile a quella del 2006-2007, quando si cautelino con scongiuri i tifosi del Chievo. Il Chievo retrocesse con 39 punti e il Cagliari si salvò con 40. Ulteriore coincidenza con quell'anno, retrocesse il Chievo per l'appunto, che giocò, venendo poi eliminato al Levski Sofia, addirittura i preliminari di Champions League. Un po' come sta capitando quest'anno, e invito di nuovo ad ulteriori scongiuri, eccetera, stavolta i tifosi della Sampdoria. Perché c'è una specie di, non dico maledizione, ma di sortilegio di questo quarto posto, che vale, come noto, i preliminari di Champions League, ancora per quest'anno, perché dal 2012-2013 poi non se ne parla più, se lo pigliano i tedeschi per meriti, no? di classifica UEFA, e quindi non se ne parlerà più. Comunque 2006-2007 il Chievo dai preliminari di Champions alla Serie B, 2009-2010 Fiorentina dai preliminari di Champions all'undicesimo posto, e 2010-2011 Sampdoria dai preliminari di Champions, tra l'altro con una beffa finale incredibile con il Werder Brema in casa, qualificazione già praticamente ottenuta, dai preliminari alla zona retrocessione attuale, nella migliore delle ipotesi. Abbiamo anche dei contributi vocali da ascoltare, e però abbiamo già i primi interventi degli ascoltatori. Comincerei da voi, da Daniele da Pavia. Buongiorno. Buongiorno Gigi, complimenti per la trasmissione. Mm-hmm. Volevo farle velocemente una domanda, intanto torno ancora alla Champions League. Io non darei così per scontato il passaggio del turno comunque del Manchester United, visto e considerato in Premier il calendario che si ritrova, anche perché visto e considerato lo Schalke, avendo solamente quello da doversi concentrare, secondo me può fare due buone partite, soprattutto stasera, ma anche al ritorno, perché la vedo una squadra comunque abbastanza preparata, certo non a livello tecnico come il Manchester United, ma che può sicuramente mettere in grave difficoltà la squadra di Ferguson. E tutto qua. Invece per quanto riguarda Real Madrid, spero venga a casa, perché mi sta molto antipatico Mourinho, anche se è un grande allenatore, e secondo me il Barcellona è veramente qualcosa di diverso rispetto al Real Madrid di oggi. Grazie a lei Daniele, che sia qualcosa di diverso sul piano organizzazione del gioco e del divertimento non c'è, credo che non sia in discussione. Basti pensare che il Real Madrid deve stravolgersi, deve snaturarsi per affrontare il Barcellona. Questo credo che sia il miglior riconoscimento, no, della qualità del gioco del Barcellona, perché se giocano il Barcellona a fare il Barcellona e il Real a fare il Real, vince il Barcellona praticamente sempre, come succede da anni a questa parte, nonostante il Real si sia sempre più rafforzato con giocatori sempre più di talento. deve snaturarsi al punto da far fare il gregario e i gregari a giocatori di grande talento come Ozil, come Di Maria. Di Maria ha votato all'estrema sacrificio, un giocatore di quel talento, di quelle qualità e di quel piede mancino è il miglior riconoscimento alle qualità del Barcellona. Detto questo, io credo che questa doppia sfida di Coppa sia aperta veramente a ogni soluzione, ma che psicologicamente, tecnicamente no, ma psicologicamente sia favorito il Real Madrid in questa qualificazione. Ma vi rendete conto che il campionato spagnolo è molto scarso? Sembra la seconda categoria italiana, scrive Max, ma si rende conto che lei sta dicendo una cosa come minimo opinabile, caro Max? Io credo che sia molto scarso il campionato italiano rispetto a quello spagnolo, poi ovviamente è una questione di opinioni. Seguo abbastanza spesso il campionato spagnolo e mi capita di divertirmi anche senza la presenza di Real o a maggior ragione di Barça. Mi capita di divertirmi a vedere giocare il Villarreal, a vedere giocare certe partite del Valencia, a scoprire ogni tanto, soprattutto in via di stagione, qualche squadra che gioca un calcio interessante, magari in determinate circostanze, senza continuità. La stessa scoperta nel campionato italiano faccio fatica a farla, con molta sincerità. Gerardo ha chiamato da Torino, buongiorno. Piacere parlare con lei e volevo portare la mia esperienza. Sono un tifoso del Liverpool con una tiepida passione juventina, ormai tiepida. Tutti mi danno di fare perché io sono stato ad Anfield recentemente e ho visto veramente un altro mondo, veramente una cosa. Poi sabato ho dovuto portare mio nipotino al comunale e ho visto veramente, cioè, i tifosi che si insultano, mentre in Inghilterra si canta soltanto, e poi ho visto veramente un altro mondo. Gerardo, quello che lei dice, quello che lei racconta, è una testimonianza molto interessante e molto avvilente per noi come popolo, come paese, come sistema calcio, e credo non sia difficile capire perché 25 anni fa, al di là della tragedia che successe a Bruxelles, ma e delle dimensioni spaventose di quella tragedia, ci fu quell'anno in particolare il confronto diretto, purtroppo diretto, magari fosse stato indiretto, di due modi di intendere il calcio, che erano un modo che già stava cominciando ad avere qualche problema degenerativo. Comunque era ancora un modo civile, passionalmente civile, del calcio italiano, e c'era invece il modo degli hooligans, il modo degli ultra inglesi, che erano arrivati all'acme, veramente al punto di non ritorno in questa corsa alla follia calcistica, no? Ecco, sono passati 25 anni, che non sono pochi, indubbiamente, anzi sono tanti, ma ormai da molti di questi anni a che cosa assistiamo? Assistiamo a un fenomeno, per fortuna non altrettanto cruento e non altrettanto drammatico nelle proporzioni e soprattutto nel numero di vittime, ma assistiamo a un fenomeno inverso, quello che ci ha testimoniato lei, e cioè se a uno di noi capita di andare a vedere una partita in Inghilterra, ne torna stupefatto dal livello di civiltà, di passione sana, di partecipazione totale, ma incruenta, ma civile, ma educata, ma responsabile. Se invece uno fa la stessa esperienza in Italia, soprattutto in quello stadio che continua a fregiarsi del nome in un certo settore di curva scirea, no? In maniera sempre più indegna, fa l'esperienza purtroppo opposta, e su questo credo che da troppi anni continuiamo a dire bisognerebbe riflettere. Il fatto è che abbiamo riflettuto finché abbiamo voluto, ma abbiamo capito che il cambio che gli inglesi seppero fare, noi attualmente non siamo davvero in grado di riuscire a organizzarlo. Pietro ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono tifoso della Roma, anzi da qua a Milano, e volevo parlare un secondo di Benedetto. Volevo fare una battuta. Tralasciando tutte le preoccupazioni che voi avete sollevato e che io condivido in pieno, perché anche a me non è che mi è molto chiara, la battuta che volevo fare: ma Di Benedetto, ci hanno spiegato come siamo messi a livello di federazione, di Lega, di diritti televisivi, le liti, perché io voglio vedere quando sarà invitato, non lo so, ad andare a qualche consiglio, veramente voglio vedere la sua espressione, non lo so, perché secondo me siamo in una situazione a livello di calcio, ripeto, Lega, Federazione, che era meglio spiegargliela a questo nuovo presidente, ecco, tutto qui. Volevo una sua battuta in merito, si poteva fare. Ma insomma, la battuta l'ha già fatta lei, mi pare, e quindi non andrei a notare. La battuta potrebbe essere che poi alla fine ciascuno si guadagna il consesso che si merita, insomma, no? Perché ho l'impressione che se sono lecite molte perplessità sul livello dirigenziale nostrano, altrettante riserve possano essere formulate su chi così caldamente anela a far parte di questo così illustre consesso. Però, insomma, giusto perché lei mi ha sollecitato una battuta, non è detto che sia particolarmente felice. Ha notato come anche questa volta il Bologna abbia regalato l'ennesima partita? Domanda Giacomo da Senigallia. Allora, insomma, regalato è un'espressione un po' forte. Che però il Bologna, da quando ha raggiunto la salvezza, cioè da un mese circa, o forse di più, meritoriamente, quindi giù il cappello per quello che ha fatto prima, però ecco, stavolta sì che veniva una battuta che però non è tanto la società, perché più o meno sarebbe stato giù il cappello prima ma giù le braghe dopo, però, no? Rispetto ad avversari irresistibili e non. E questo è il guaio dei nostri finali di stagione, perché senza voler minimamente pensare male sul conto del Bologna, evidentemente le famose motivazioni in casa nostra hanno bisogno di qualcosa, di un supporto. Le faccio un esempio di squadra che sta giocando in maniera, che sta giocando in maniera molto onesta e molto responsabile e molto sportiva questo finale di stagione, è il Genoa. Il Genoa nelle ultime due partite ha liquidato rivali della Sampdoria, ha liquidato robustamente a suon di gol due rivali della Sampdoria per la zona retrocessione. Allora, riflessione prima: se pensiamo a come l'altro anno si comportò la Lazio giocando contro l'Inter per essere certa di fare un dispetto alla Roma, già il Genoa quest'anno merita un applauso per queste due partite. Non solo, ma evidentemente i genovani hanno studiato il calendario e hanno visto che dopo queste due vittorie in fila, una contro il Brescia e una contro il Lecce, dirette rivali, ripeto, della Sampdoria, adesso hanno una partita interlocutoria e poi alla prossima avranno il derby con la Samp. Hanno talmente intenzione di applicare la parità di trattamento che domenica in tre hanno fatto come avrebbe detto Mourinho, si sono fatti ammonire per essere sicuri di essere squalificati alla prossima partita e di poter giocare il derby. Ho visto in particolare la sequenza in cui Milanetto, che sta per battere una punizione, rimedia il cartellino, e ho visto anche il dispiacere con cui ha accolto questa decisione arbitrale, sto naturalmente parlando per eufemismi, e questo significa che il Genoa giocherà, come era prevedibile, con la massima serietà il derby con la Sampdoria, e ne avrà tutto il diritto sportivo, perché nel frattempo ha sistemato i rivali della Sampdoria. Io trovo che questo sia un ottimo segno per l'educazione sportiva del nostro calcio, come pessimo invece è il segno che arriva da Bologna. Potremmo fare potremmo ascoltare una voce per evitare interventi troppo lunghi, e questa voce, che poi invece troveranno spazio nell'ultima parte, potrebbe essere quella di Buffon, una perorazione, forse postuma, temo, della causa di Del Neri. Quest'anno stanno già parlando di un sostituto di Del Neri ed è una cosa che mi dispiace, perché poi alcune partite, io credo, come quella col Catania, l'allenatore sia l'unico che non è colpevole. Da domani, da domenica, da lunedì, quando sarà con la Lazio, abbiamo un unico dovere, di cercare di fare il massimo per vincere e per cercare di far convincere anche la società che l'allenatore che abbiamo è un allenatore in gamba che merita la conferma. Era Buffon che parlava di Del Neri. Noi facciamo l'ultimo intervallo di oggi per sentire come va su strade e autostrade. Me l'aspettavo, scrive un ascoltatore di quelli che non firmano, perché non si sa mai, che ti saresti accorto del Bologna a braghe calate solo adesso che deve affrontare il Milan. Ora, a parte il fatto che il Milan col calendario che ha e soprattutto col vantaggio che ha non deve più preoccuparsi di nulla, ma il problema, caro scienziato, è che non sono stato io ad accorgermi del Bologna, o meglio non solo io, se ne è accorto per esempio il Bologna che sta esonerando Malesani, sta pensando di esonerare l'allenatore di una salvezza strepitosa e miracolosa, perché non è riuscito in quest'ultimo mese a dare un minimo di a dare, insomma, a fare in maniera che la squadra giocasse, perdesse, per carità, perché si può anche perdere, ma che perdesse magari o si arrendesse, insomma, combattesse in un'altra maniera e non in questa. Ripeto, il Bologna società molto prima di qualsiasi osservatore esterno. Sentiamo che cosa ha preparato per un 26 aprile Nicola Filippone. Sembra ieri. 26 aprile 1981, 26esima giornata di campionato. A 5 turni dal termine, Juventus, Napoli e Roma condividono la testa della classifica. Sulla carta il turno è favorevole ai partenopei, unici a giocare in casa. A maggior ragione perché al San Paolo arriva il Perugia, ultimo in classifica. Ma a sorpresa, gli Umbri passano in vantaggio dopo soli 50 secondi, grazie a una clamorosa autorete di Moreno Ferrario. L'assalto alla porta perugina dura di fatto più di 90 minuti, ma senza risultati. Dopo il sorprendente KO interno, il Napoli non riuscirà a recuperare il terreno perduto e a fine stagione la formazione guidata in panchina da Rino Marchesi e in campo da Rudy Kroll dovrà accontentarsi del terzo posto. Anche il Bari si sta comportando bene, osserva Sergio da Trieste, si sta comportando con dignità, sì, bene, quindi bene direi, perché il Bari finora non ha regalato assolutamente nulla a nessuno, se perde, perde perché retrocede, perde perché quest'anno è oggettivamente l'ultima della classe, non lo era in partenza certamente per qualità, per gioco collaudato, lo è diventata prima per infortuni e poi perché l'ambiente si è rotto e si è guastato, ma anche domenica contro la Sampdoria ha giocato con grande lealtà e tra l'altro ha perso su un rigore su cui si potrebbe discutere abbastanza a lungo. Lorenzo ha chiamato dalla provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno. Come non poteva mancare un attacco alla Juventus e ai tuoi tifosi da parte di chi ha portato un premio a Magath. Sì. Volevo dirle, i tifosi della Juventus e la Juventus sono stati pesantemente multati per i cori razzistici fatti a Balotelli. Però la Fiorentina che ha fatto gli stessi cori a Felipe Melo, nulla. Non solo. Domenica Firenze, due domeniche fa, ho sentito cori sulla Isel contro gli alieni morti annegati nella tragedia a Vinovo, però di queste cose non si parla. Gli unici tifosi brutti, sporchi e cattivi sono quelli della Juventus. No, ma Io mi ricordo che c'è stata un'altra tifoseria che ha bruciato uno scooter sugli spalti. No, beh, insomma, mi pare che quell'episodio sia stato discretamente pubblicizzato nel tempo, no? Qui perlomeno questi microfoni senz'altro, al punto che venimmo come sempre accusati di persecuzione da parte del tifoso interista, come adesso lei invece fa da una barricata opposa. L'osservazione di prima sui brutti, sporchi e cattivi nasceva da un'esperienza, mi pare, no? di un tifoso juventino che denunciava tutto il suo disagio da juventino nel dover riconoscere un livello di civiltà superiore in uno stadio inglese rispetto a uno stadio italiano. Poi non è certamente la Juventus l'unica tifoseria brutta, sporca e cattiva. Nel rapporto tra la civiltà e l'educazione sportiva di quel fuoriclasse umano, non solo calcistico, che fu Scirea, nel rapporto tra l'intitolazione di una curva e il comportamento degli abitanti di quella curva, e abitanti già è un complimento, credo che sia il contrasto più stridente che c'è oggi in Italia, ma questo non toglie che ci siano tifoserie che si comportano in maniera altrettanto negativa, altrettanto colpevole e altrettanto, non so come dire, incivile rispetto a quella juventina, come spesso è accaduto in questi anni. Piero, provincia di Forlì e Cesena. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Cioè, a proposito di tifosi, volevo dire che il sabato in Bologna Cesena era stata vietata la trasferta ai tifosi del Cesena non tesserati. Il presidente Cappadelli, mettendoci la faccia e la garanzia, è riuscito a far portare 500 tifosi non tesserati, perché responsabilizzati, riunioni, non è successo niente a Bologna, vuoi per la vittoria, però a Bologna... mettiamo voi per la vittoria, beh. No, no, io dicevo anche, se poi vengono responsabilizzati un po' sti giovani, perché per me è una strada da seguire, responsabilizzare i giovani tifosi. Ed è questo il messaggio, insomma. Sì. Ma insomma, io responsabilizzare è sempre una ottima strada, con molta, ma molta cautela, con molte riserve, calcolando che il calcio è una bestia strana, calcolando che, per l'appunto, come lei stesso ha riconosciuto, poi si vince. Io credo che, con tutto rispetto per chi prova a responsabilizzare i tifosi, per esempio in questo caso per l'operato del presidente Campedelli, ma io credo che l'opera di se vogliamo fare una graduatoria di meriti sul fatto che tutto sia finito bene, se vogliamo fare un parallelo tra l'opera di responsabilizzazione, quanto ha inciso, e quanto ha inciso infatti invece il fatto che il Bologna non la becchi mai in questo periodo, io sono per il capitolo B, sul piano dell'incidenza, sul fatto che non sia accaduto nulla. Vogliamo sentire un frammento di una intervista a Lippi molto recente, mi pare risalga un paio di giorni fa, in cui Lippi dichiara tutta la sua voglia di provare a tornare in gioco ormai a molti, ma molti mesi dalla disavventura in Sudafrica. Sentiamo. Nella vita non bisogna mai escludere niente, ci sono degli ambienti ai quali non si direbbe mai di no, mai dire mai, ma questa non è una candidatura, è semplicemente una presa di posizione, una spiegazione. Ho detto, io in Italia l'allenatore non lo faccio più, a meno che non per ragioni di cuore, ma questa fa parte del discorso che facevamo prima, del rapporto che io ho con questa società, che vogliamo che non succeda mai, perché vuol dire che le cose vanno bene. Dovesse aver bisogno, perché no? Una mano gliela darei. Ha scritto La Stampa stamane, a firma Guglielmo Buccheri, a proposito di questo intervento. Quando era un'ombra ingombrante, soprattutto per chi come Ranieri faticava a tenere in equilibrio la Roma, Marcello Lippi mandava in giro messaggi e messaggeri per cancellare qualsiasi tipo di impronta. Oggi il CT del Trionfo Mondiale ha deciso di trasformarsi in un'idea, e lo fa mandando avanti se stesso dalla notte del derby Solidarietà Juve-Toro, quando guidò le vecchie glorie bianconere all'Olimpico. Il copione è scritto, il tempo sta per scadere, perché queste sono le ore delle grandi manovre, dove le panchine si puntellano o vanno incontro a rivoluzioni, e Lippi ha capito che è il momento di spezzare l'incantesimo che lo vuole spettatore, non protagonista. Il Sudafrica è un ricordo più pallido, e ingiallite sono le offerte che in questi 10 mesi dall'incubo planetario gli sono piovute addosso. Qualcuno l'ha inseguita come l'Ucraina e mollato per mancanza di entusiasmo, a molti ha inviato esche per decifrarne gli umori. Allenerei volentieri Chelsea, così Marcello Dixit, solo poche settimane fa. C'è in linea Matteo da Vicenza, buongiorno. Buongiorno Garanzini, volevo fare due considerazioni veloci. Sì. La prima è che senza Zamparini il Palermo sarebbe forse in Champions League, però ha un genio come presidente. E poi la seconda, volevo un suo parere sulla famosa legge Bosma, che a mio avviso è uno dei grossi motivi per questi disastri sui bilanci in rosso delle squadre italiane e anche europee. E hanno messo in mano il calcio mondiale a molti procuratori. Grazie, buongiorno. Insomma, che Bosman da questo punto di vista non abbia fatto del bene al calcio non c'è nessun dubbio. Però vede, io credo che il calcio, dato che il calcio non ha mai saputo amministrarsi storicamente, salvo rarissime eccezioni, il calcio prima andava in dissesto perché si davano quotazioni senza senso a dei giocatori. Dopo Bosman, e naturalmente poi questi guadagnavano abbastanza in proporzione, dopo Bosman il calcio è andato a maggior ragione in dissesto perché in teoria non ci dovrebbero più essere quotazioni, nel senso che quando un giocatore è sotto contratto, tu società, mentre prima ti svenavi per il cartellino di quel giocatore, ti sveni in realtà per il contratto di quel giocatore, perché nulla dovresti a quella società, nel senso che se lo spirito della Bosman fosse osservato fino in fondo, il giocatore che è sotto contratto non andrebbe contattato, non andrebbe preso. Ovviamente non sta andando così, tant'è vero che a fronte di chi cerca di muoversi sul mercato andando a prendere giocatori in scadenza di contratto e quindi strapagandoli poi come ingaggio, ma almeno risparmiando quei quattrini, la maggior parte delle società trova invece il modo di avere la doppia uscita, no? Quindi di spendere cifre spaventose sull'uno e sull'altro versante, con le conseguenze che vediamo. Mi spiace non ci sia più il tempo di ospitare un ascoltatore da Taranto di nome Diego, che sarà dei nostri domani. Segnalo al centralino che sarà il primo ad essere richiamato domani, ma tanto vale essere puntuali. E quindi, dopo aver ringraziato Filippo Aureggi in regia e Franco Piantanida in redazione, salutarvi e lasciarvi al giornale radio.